Ben ritrovati in quel di Radio Wombat con questa diretta che parte sostanzialmente con 2 ore e più di ritardo per problemi tecnici, maledetti e bastardi cavetti. Fatemi dire che la tecnologia moderna fa veramente schifo, nel senso che è tutto veramente fatto per essere aggeggiato con strumenti piccoli piccoli piccoli e non con le mie manine, e quindi a fare un cavolo di cavetto che funzionava ci ho messo 2 giorni, ma ora abbiamo il cavetto e quindi possiamo fare finalmente la diretta in maniera abbastanza decente da una postazione bellissima dove abbiamo addirittura due piatti, abbiamo due piatti per mettere i vinili, il computer, il mixer, il microfono, quello vero addirittura, e quindi la qualità in realtà sale, anche se sì, ci è voluto praticamente 3 o 4 giorni per inventarsi tutta sta cavolo di roba, per colpa tra l'altro degli smartphone e dei computer maledetti laptop, perché quelli grossi, quando una cosa è grossa, è più facile da aggeggiare. E così è. Comunque, questa puntata che doveva andare in onda alle 7, in realtà voleva essere un tentativo iniziale di approfondimento sulla questione economica dell'emergenza coronavirus, nel senso che per quanto sia completamente drammatica la questione sanitaria, sempre più pressanti sono anche le questioni economiche, di che avverrà dopo, durante e chi lo sa, essendo noi legati mani e piedi alle questioni dell'economia, alle questioni di soldi, così come nella gestione del durante, ugualmente saremo legati in questa cosa nella gestione del poi, e il poi si presenta sostanzialmente una bella merda, credo sì. Però ci sono delle cose che stanno accadendo che non è facile leggere né comprendere. Nei giorni scorsi si è parlato molto di andare avanti e indietro dello spread. Ecco, forse è una cosa utile provare a spiegare da me, che in realtà né economista non sono, in realtà manco matematico sono un becero informatico, però penso di potercela fare a spiegarvi che cos'è lo spread, magari è una cosa utile. Comunque, sostanzialmente, scusate il colpo di tosse, il periodo è così, no, non sono malato, giuro. Lo spread, dunque, lo spread è un termine di quelli che la matematica finanziaria si dà per farsi bella e farsi sembrare veramente matematica, non vuol dire nient'altro che differenza, o meglio, come lo chiamano loro, è differenziale. In realtà è proprio una minchia di sottrazione de merda, e non fa che calcolare una specie di differenza tra rendimento di due titoli, di cui uno è quello di riferimento, che di solito sono i Bund tedeschi, e l'altro è di solito un'obbligazione statale tipo i nostri BTP, per l'Italia i BTP sono le nostre obbligazioni statali, e cioè i classici buoni del tesoro, insomma, e compara la differenza tra i due rendimenti, no? Quindi se ne piglia uno stabile e poi si piglia il nostro, per esempio, che ne so, poniamo che il nostro rendimento a una certa scadenza abbia come rendimento il 5% e l'equivalente alla stessa scadenza del Bund tedesco abbia il 2%. Allora uno fa 5 meno 2, 3, poi lo moltiplica per 100 e viene fuori che lo spread è 300 punti base. 300 punti base sono quando dite lo spread è salito a 300, lo spread è sceso a 100 e via e via e via. Sostanzialmente quello che si sta dicendo è solo quanto i nostri BTP sono appetibili rispetto a quello più fisso che è appunto quello Krucco. Quindi quando il nostro spread sale un sacco è un cavolo di casino. È un cavolo di casino perché? Perché anche se questo atteggiamento potrebbe sembrare una roba, cioè un conto matematico, in realtà è dato da delle cose che sono completamente legate all'animo umano. Cioè con lo spread noi misuriamo anche, ad esempio, quanta fiducia gli investitori hanno in noi, perché se dobbiamo alzare tanto il nostro tasso di rendimento dello spread, cioè scusate, dello spread del titolo, significa che la gente sostanzialmente non se lo vuole comprare. Allora, per convincerlo a comprarli, noi lo alziamo di più. Però se lo alziamo di più, cosa facciamo? Riduciamo la liquidità a disposizione dello Stato, perché nel momento in cui gli dobbiamo ridare i soldi, ne dobbiamo ridare di più. E allora ci va che se il nostro spread sale troppo, noi andiamo forte a crisi di insolvenza, perché magari chi ci compra perché è un ottimo affare, perché noi siamo nella merda e quindi garantiamo dei profitti altissimi, che poi però mica siamo in grado di pagare e allora ci dobbiamo indebitare per pagare ancora di più e quindi si va sostanzialmente a rischio di forte insolvenza. E quindi, però, questa era una roba a cui siamo abituati perché negli ultimi 10 anni, no, negli ultimi 20 anni ne avremmo avute tre o quattro di crisi, di cui quella grossa era il 2008, e si continua sempre a parlare di questo spread e di tutte queste cose. Ecco, nello specifico di cosa accade con il coronavirus, abbiamo degli elementi nuovi che di solito non sono solo le classiche crisi dal fatto che la gente non ha soldi, non compra. Che questa accadrà senza dubbio dopo il coronavirus, non ci avremo un cazzo di soldi, compreremo solo più quello che è, ma avremo proprio anche un altro problema, quello che non ci abbiamo più di che produrre perché magari un casino di attività, per il fatto che sono rimaste ferme necessariamente per X tempo, falliranno, quindi avremo anche non solo una crisi di questo tipo, ma anche una crisi della produzione. Come ci si sta attrezzando perché tutto questo non finisca in un gran casino? E io personalmente ancora non l'ho troppo capito, ma mi fido sostanzialmente di un'intervista che vi propongo. E ogni venerdì su Radio Onda d'Urto intervistano Andrea Fumagalli. Andrea Fumagalli è un docente di economia politica in quel dell'Università di Pavia e ogni venerdì lui fa un po' il punto, insieme ai microfoni di Radio Onda d'Urto, su quello che è successo, sui fatti, diciamo, salienti della vita finanziaria, economica, del panorama più o meno internazionale. Ora siamo molto legati chiaramente a questa cosa del coronavirus. E quindi vi rimanderei a questa intervista che dura circa 25 minuti. Poi al termine magari si mette ancora un po' di musica e poi si riprende. E la puntata volevo anche fare una lettura presa questa da Internazionale, che è sempre interessante ed è sempre sulle questioni economiche, e in particolare la lettura di un'economista indiana che parla un poco dei mercati asiatici e in particolare della questione del debito. Lei torna a ridire quello che si diceva già nel 2000, cioè la cancellazione del debito, e dice nel momento in cui questo debito cresce troppo e cresce per una questione come un coronavirus, È inutile che pensare che questo debito qualcuno è in grado di risaldarlo, perché nessuno è in grado di risaldarlo. L'unica cosa è cancellare, cioè fare finta che quello che abbiamo fatto, che ha avuto, creato, cioè una roba del genere. Sembra molto ragionevole, se il mondo fosse ragionevole, spesso il mondo non è ragionevole. E quindi vi rimando ora a questa, anzi vi faccio ascoltare questa intervista di 25, questo intervento di 25 minuti di Andrea Fumagalli, poi un po' di musichina e poi magari vi leggo appunto questo articolo preso da Internazionale, di cui però dettaglio meglio dopo. Ora vediamo se la musica parte, vediamo se ci riesco, non ci sono ancora riuscito, ora vediamo se ci riesco. Penso di esserci riuscito. Con il nostro collaboratore, docente di economia politica all'Università di Pavia, Andrea Fumagalli, che saluto subito. Andrea, buongiorno. Buongiorno a te e un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Allora, abbiamo un po' di notizie da commentare insieme. Intanto, la decisione della BCE, appunto, se nei giorni scorsi la presidente Lagarde aveva lasciato dei dubbi, la mossa lanciata invece ieri dalla Banca Centrale Europea sembra lanciare un messaggio ai mercati. Infatti, il consiglio direttivo, della BCE per fronteggiare l'emergenza economica causata dal coronavirus ha lanciato un nuovo quantitative easing da 750 miliardi di euro con acquisti di titoli del settore pubblico e privato. Il programma, dice appunto Presidente della BCE, proseguirà per tutto il 20. A questa cifra, ricordo, vanno aggiunti 120 miliardi già annunciati la settimana scorsa dalla stessa Christine Lagarde, 40 mensili attualmente già erogati, e poi aggiunge: non ci sono limiti al nostro impegno per l'euro. Questa è dunque la decisione della Banca Centrale Europea. Sì, è una decisione praticamente dovuta perché dopo che c'erano state tutte le polemiche relative a quell'infelice frase che la Lagarde aveva utilizzato, nel senso che, ovvero alludendo al fatto che la politica monetaria europea non aveva come compito quello di ridurre lo spread, ma perché lo spread doveva essere ridotto attraverso l'utilizzo di politiche fiscali di ogni singolo paese, ovvero leggi, politiche di austerity, di controllo dei propri bilanci. Ecco, dopo queste uscite, dopo una prima iniezione di liquidità molto contenuta, 120 miliardi di euro in 9 mesi, cioè quindi una cifra intorno ai 15 miliardi al mese, che è del tutto insufficiente per tamponare quelle che erano state le perdite massicce dei mercati finanziari fino a quel momento. Ecco, alla luce di tutto questo, dopo che la Federal Reserve americana ha deciso di fare una politica di quantitative easing, cioè di espansione monetaria di oltre 1.500 miliardi di dollari, è chiaro che in un contesto del genere e di fronte soprattutto al fatto che il giorno precedente le borse europee e americane avevano perso oltre il 6-7%, arrivando a delle perdite complessive nel giro di un mese di oltre il 35%, beh, di fronte a questa situazione è chiaro che o si iniettava liquidità, oppure il rischio era che ci si verificasse una pandemia finanziaria, oltre che una pandemia sanitaria, no? Nel senso che ormai le borse erano in una situazione in cui avevano perso quasi tutte un terzo del loro valore. Una situazione insostenibile per lo stesso capitalismo finanziario che nella dinamica delle plusvalenze e della speculazione finanziaria trae forse la principale linfa per la sua sopravvivenza. E quindi è chiaro che a questo punto anche la BCE doveva accodarsi a già gli interventi della Federal Reserve, della Banca del Giappone, nonché dell'intervento della Banca Centrale Cinese. Ricordiamo che anche la Banca Centrale Cinese, inizio di questa settimana, aveva pompato liquidità nell'economia cinese. E quindi ha deciso di immettere 750 miliardi. Teniamo presente che questi 750 miliardi non serviranno per sostenere le politiche negli stati europei di fronte all'emergenza del coronavirus. Serviranno quasi esclusivamente, come sempre si è verificato, già a partire da Mario Draghi, a dare liquidità per sostenere i mercati finanziari. È una liquidità che esce dalla banca centrale, va nei mercati finanziari e rimane nei mercati finanziari e non tracima sull'economia reale, nonostante quello che scrivono i giornali. Questa è l'esperienza che ormai abbiamo potuto verificare negli ultimi anni, quando le politiche di quantitative easing fatte da Mario Draghi avevano raggiunto dei livelli di ammontare di liquidità enormi. Si calcola circa il 20% del prodotto interno lordo, cioè pari a 3,3 trilioni di euro. di questi 3,3 trilioni di euro, soltanto briciole sono andate all'economia reale. Certo, è stato ottenuto un buon risultato, quello di ridurre i tassi di interesse e quindi in un certo senso ridurre i rischi di una speculazione sullo spread fra i diversi differenziali dei tassi di interesse sui titoli di Stato dei paesi europei. Questo è sicuramente l'obiettivo che verrà raggiunto. L'altro obiettivo sarà quello di sostenere le borse per mantenere viva la speculazione finanziaria. Ma dal punto di vista di creazione di risorse di fronte all'emergenza sanitaria che ci troviamo ad affrontare, beh, questo sicuramente difficilmente avverrà. E l'altra questione invece, Andrea, riguarda appunto qui Italia, il decreto legge che è stato pubblicato poi martedì scorso sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce misure di potenziamento sì al Servizio Sanitario Nazionale, ma sono soprattutto un sostegno alle imprese coinvolte appunto travolte dall'emergenza da Covid-19 e poi ancora un sostegno alle famiglie. Abbiamo avuto il tempo, Andrea, di leggerlo insieme meglio, sono numerose le critiche che vengono mosse e ne anticipo una, poi la commentiamo insieme perché c'è naturalmente tutto un mondo economico solidale che dice che certamente i fondi stanziati sono ingenti, ma si presentano frammentati rispetto alla copertura della totalità dei lavoratori, soprattutto rischiano anche di potenziare i beneficiari a causa della differenza proprio tra il sussidio e il salario percepito prima della crisi. Si pone poi un problema di uguaglianza e universalità delle misure proposte appunto con Cura Italia, soprattutto per quanto riguarda lavoratori e lavoratrici, e viene chiesto che i miliardi stanziati sia dalla Banca Centrale Europea e con le altre misure economiche di investimento annunciate anche dal governo italiano, in parte potrebbero essere utilizzati per estendere appunto il cosiddetto reddito di cittadinanza in senso più universalistico, incondizionato e non vincolante, destinato tra virgolette diciamo ai poveri, comunque ai 14 milioni di persone nel nostro paese. Sì, dunque, dobbiamo riconoscere che sicuramente c'è stato uno sforzo da parte del governo perché alcuni provvedimenti per di sostegno al lavoro e al reddito hanno rappresentato una novità rispetto all'asfittico panorama italiano e rispetto alla giungla e alla distorsione del sistema degli ammortizzatori sociali che vive in questo paese. E il fatto che la cassa integrazione sia stata estesa si parla di lavoro subordinato, dipendente, anche ai lavoratori di imprese molto piccole, è sicuramente un qualcosa di nuovo. È stato creato anche un fondo di 300 milioni, cioè quindi un'inezia per finanziare un reddito d'ultima istanza, e non si capisce bene poi a chi va. Sono state prese la possibilità di utilizzare forme di ammortizzazione sociale di tipo privato, questo è l'aspetto forse più delicato, perché si incentivano i datori di lavoro a mettere il personale in ferie o in cassa integrazione e questo ovviamente comporta una decurtazione del reddito dei lavoratori, perché la cassa integrazione copre fino al massimo l'80% dello stipendio, quindi vuol dire che c'è un calo del 20% di reddito e mettere i lavoratori forzatamente in ferie significa è un costo che poi sono gli stessi lavoratori a dover pagare, le stesse lavoratrici a dover pagare. E quindi l'impressione è che ci siano delle misure tampone, si cerca di mettere una toppa al buco creato dall'emergenza coronavirus. Forse da questo punto di vista si è persa un'opportunità perché si sarebbe potuto, diciamo, pensare a interventi più strutturali. Anche la richiesta da parte dei movimenti del reddito di quarantena e quindi la campagna che è iniziata oggi attraverso una serie di comunicati e di appelli da parte del Basic Income Network piuttosto che da altri movimenti sociali, dalle CLAP, le Camere del Lavoro Autonomo e Precario, piuttosto che i lavoratori dello spettacolo, piuttosto che tutta una serie di altre iniziative di questo tipo, devono puntare al superamento del reddito di quarantena, altrimenti si rientra in questa logica emergenziale appunto di tampone, no? Per cui si dà un reddito per il periodo in cui si presume possa durare la crisi e poi si ritorna alla situazione precedente. Invece credo che sia questa l'occasione buona per spingere perché vengano introdotte un allargamento, un processo di maggiore generalizzazione delle forme di sostegno al reddito, eliminando tutta una serie di vincoli dovuti alle politiche attive del lavoro e via di questo passo che si sono rivelate del tutto inefficienti, e per iniziare iniziare un processo di riforma del sistema della sicurezza sociale in Italia. Proprio per ottenere questo obiettivo di carattere economico, ma anche di carattere politico, che appunto è importante, diciamo, spingere e fare delle pressioni perché si arrivi a una generalizzazione di forme di reddito di base incondizionato. Forse questo è l'unico vero antidoto al contagio del virus, e consentirebbe poi anche di arrivare a tutte quelle persone che oggi sono escluse. Pensiamo a tutte le parti del lavoro precario, a quello intermittente, quello che lavora ad ore e che non può quindi oggi non può lavorare perché le scuole, gli operatori sociali, le cooperative, eccetera, sono in difficoltà economica, sono chiuse, eccetera, e che non percepiscono praticamente nulla. Da questo punto di vista credo che ci sia molta strada da fare, ma se ci si muove nell'ottica di un intervento strutturale per una riforma, una semplificazione del sistema degli ammortizzatori sociali verso un'unica forma di reddito di base il più possibile incondizionato, beh, questo credo che sia l'unica strada che si possa essere percorsa. Ma tante sono le ipotesi che sono comunque girate in questi giorni, economisti, eccetera, che intervengono un po' tutti, molto gettonata, ho visto da una certa lettura, soprattutto di economisti di sinistra, la possibilità di erogare soldi liquidi diretti alle famiglie. Potrebbe essere una soluzione, a me sembra una soluzione temporanea per la verità, perché in effetti. Ma bisogna vedere quali sono le fonti e i finanziamenti di questa erogazione di reddito. Ad esempio, per quanto riguarda appunto le politiche monetarie della BCE, si discute da qualche anno dell'idea di sotto lo slogan un quantitative easing for the people, per la gente, cioè possibilità di utilizzare il denaro creato dalla banca centrale bypassando il canale di trasmissione dei mercati finanziari e inserirlo direttamente a sostegno dei portafogli delle famiglie. È chiaro che questo presuppone un coordinamento a livello europeo e a livello nazionale con la gestione delle politiche di budget e delle politiche fiscali. Il problema che abbiamo di fronte è che in Europa non esiste una politica fiscale comune. Si fa riferimento alla possibilità di piani straordinari a livello europeo, che per il momento sono sulla carta, magari finanziati dall'introduzione di Eurobond. Ma però tutto questo è ancora molto vago, perché non c'è accordo politico, non c'è interesse anche da parte di alcune nazioni verso soluzioni di questo tipo. Faccio riferimento in maniera esplicita alla Germania. Invece si cerca di utilizzare degli strumenti come il Fondo Salva Stati, il MES, che ha una serie di criticità e di limiti e può avere degli effetti boomerang anche per quanto riguarda poi la sostenibilità del debito delle singole nazioni. Adesso ne parliamo, Andrea, del MES, però volevo farti ancora un'altra domanda, sempre rispetto alle diverse misure economiche messe in campo. Un'altra lettura sostiene che tutta questa liquidità, tu hai specificato che i soldi che vengono messi a disposizione dalla BCE non vanno all'economia reale, bensì alle banche e alla finanza, l'hai già detto prima, però io leggevo appunto anche ipotesi per cui tutta questa liquidità sul mercato non servirà a nulla perché di fatto la crisi riguarderà l'offerta. Ah, c'è anche questo aspetto sicuramente nuovo. Se fino alla crisi finanziaria del 2007-2008 aveva penalizzato la domanda attraverso appunto riduzione del potere d'acquisto, quindi riduzione del livello dei consumi con effetti negativi sulla dinamica della domanda interna, situazione che ci trasciniamo ormai da un decennio, a questa situazione che comunque tende a permanere, perché tutte queste misure in ogni caso hanno un impatto negativo sulle potenzialità di consumo e quindi hanno un impatto recessivo sulla domanda interna, si aggiunge il fatto che c'è anche un blocco della produzione. E quindi questo è altra benzina che si aggiunge al fuoco della situazione recessiva che si sta creando. Da questo punto di vista è chiaro che gli interventi che ha fatto il governo con appunto il decreto legge Cura Italia cerca di muoversi in questa direzione privilegiando il lato dell'offerta, perché buona parte dei 25 miliardi, la maggior parte, più del 50% di questi 25 miliardi vengono dati come sostegno alle imprese. È chiaro che se poi si dà il sostegno alle imprese, ma contemporaneamente non si dà sostegno anche alla domanda, tutti questi soldi poi verranno utilizzati dalle imprese per ripagare, per ripianare i propri buchi di bilancio, le proprie perdite in termini di profittabilità, ma tutto questo non avrà effetti sulla dinamica economica, sulla possibilità di creare fattori di compensazione alla recessione che è alle porte. E l'ultima questione l'hai già un po' aperta tu, perché si è riaperta proprio grazie a un'intervista apparsa su Financial Times del Presidente del Consiglio Conte, che ha affermato che la politica monetaria da sola non può risolvere tutti i problemi e la strada da seguire è aprire le linee di credito con il MES, vale a dire il Meccanismo Europeo di Stabilità, a tutti i membri per aiutarli a combattere dunque le conseguenze dell'epidemia. Tra i più accesi oppositori al ricorso del fondo, appunto il MES, lo ricordiamo, il fondo salva Stati, ci sono sicuramente Lega, Fratelli d'Italia e naturalmente il Movimento 5 Stelle, che ricordiamo innescarono una feroce battaglia nel dicembre scorso, quando le forze politiche del nostro paese stavano discutendo proprio della riforma del meccanismo appunto salva Stati. Sì, il MES è uno strumento che cerca di favorire, diciamo, un intervento di tipo fiscale, di sostegno ai bilanci dei singoli stati, tutte le volte che uno stato ne fa richiesta, ma incondizionato dal fatto che questi stati devono fornire delle, diciamo, garanzie sulla sostenibilità del proprio debito. Il meccanismo è abbastanza perverso da questo punto di vista. Nel momento stesso in cui uno stato chiede un aiuto attraverso il fondo salva stati, e questa è la richiesta che Conte farà, il governo farà, visto le dichiarazioni di Conte appunto all'intervista che ricordavi tu di oggi, stamattina sul Financial Times, ma in cambio però l'autonomia della gestione di bilancio del singolo Stato viene messa in un certo senso sotto controllo, perché se non, alcuni parametri non vengono garantiti, si può, è possibile, anzi scatta, diciamo in maniera più o meno automatica, la possibilità di una ristrutturazione del debito del paese. Ora, i parametri che sono stati decisi per finanziare attraverso il Fondo Salva Stati un paese sono parametri che per quanto riguarda l'Italia non possono essere perseguiti, perché richiedono un intervento strutturale sul bilancio italiano abbastanza pesante. Cioè, è come una cosa un po' paradossale, perché da un lato si concedono dei crediti a uno Stato a patto che lo Stato metta i propri conti a posto. Allora, per mettere i propri conti a posto occorre delle politiche di austerity, cioè, quindi l'Italia sarebbe costretta a fare delle politiche di austerity, di controllo del proprio bilancio, in particolar modo riducendo la spesa pubblica e la spesa sociale. In questi anni politiche di questo tipo, che hanno penalizzato in particolar modo il settore della sanità, in cui gli effetti li vediamo chiaramente oggi di fronte a queste emergenze, sono stati già fatti, e questa è la condizione per ricevere dei soldi. Quindi è una situazione un po' paradossale, un po' assurda, perché io possa concederti dei soldi attraverso il Fondo Salva Stati, tu devi mettere in ordine i conti, tenendo fede a dei parametri che al momento attuale non sono, l'Italia non è in grado di garantire. E quindi per avere gli aiuti del Fondo Salva Stati bisogna garantire questi parametri di sostenibilità del debito, che sono tutti creati poi con modelli econometrici abbastanza discutibili, su cui già c'è stata una forte polemica anche negli anni scorsi, no? E che vengono quindi controllate e imposte da quelle che poi sono le autorità di gestione finanziaria all'interno della Commissione Economica Europea. Da questo punto di vista è un gatto che si morde la coda, diciamo, in un certo senso. Si cerca di fare questo perché non si vuole affrontare la vera questione, che è appunto il fatto di creare una sorta di roadmap in tempi relativamente brevi per arrivare a una politica di budget comune europea. Teniamo presente, per esempio, che i paesi che maggiormente perorano la causa del MES sono i paesi nordici, sono quelli che si rifiutano poi di allargare i cordoni della borsa per aumentare il loro contributo alla creazione di un bilancio comune europeo. Siamo in quote di PIL che vanno a fare il bilancio fiscale comune europeo, il bilancio europeo, no? Si tratta di percentuali dello 0, cioè assolutamente irrisorie, quando invece sarebbe opportuno, se ci fosse la volontà politica, cosa che non c'è, di far sì che tutta una serie di spese che adesso di tipo di natura fiscale, di spesa sociale, di spesa pubblica, eccetera, che oggi sono a carico dei singoli stati, venissero invece gestiti più in maniera coordinata a livello europeo, senza che questo andassero a pesare sui bilanci singoli. Adesso la situazione del coronavirus pone una problema di questo tipo, anche qui c'è forse un'opportunità che si può aprire. Già, per esempio, la Commissione Economica Europea ha permesso di ha detto che non verranno considerate ai fini del rispetto dei parametri di stabilità per quanto riguarda i singoli bilanci tutte quelle spese straordinarie che verranno fatte per combattere l'emergenza sanitaria. Quindi queste spese dovrebbero essere in un certo senso calcolate a lato. Però allora a questo punto la domanda è: ma perché non, allora, non ci si muove verso un'ottica di una politica fiscale comune europea in maniera tale da avere lo stesso livello di coordinamento con la politica monetaria e quindi utilizzare gli strumenti politica monetaria e politica fiscale ai fini di consentire un effetto di intervento sull'economia reale e non soltanto sull'economia finanziaria? Ottima domanda. Andrea, però io te ne faccio ancora una prima di lasciarci. Si domandava mio collega che sta seguendo il radiogiornale. Si poneva una domanda rispetto un po' alla posizione diametralmente opposta, quella del governatore della Lombardia Fontana che chiede oramai da giorni la chiusura di tutte le attività economiche comprese, chiaramente, mentre la Confindustria Lombarda fa orecchie da mercante, anzi qualche azienda. Qualche cosa azienda sicuramente chiuso, ma tante ne rimangono ancora aperte. Ecco, come si spiega questa posizione opposta, soprattutto da parte della Confindustria Lombarda, voglio dire, perché di fronte a un'emergenza che ammazza gente, voglio dire. Certo, la posizione Confindustria è abbastanza comprensibile dal loro punto di vista. È chiaro che loro non vorrebbero chiudere completamente le attività produttive perché questo porterebbe un danno ai suoi associati, cioè agli imprenditori che fanno parte di Confindustria e di Assolombarda. Sappiamo che questo significa che gli interessi economici sono prevalenti sugli interessi di vita. Ma questa è una cosa che nell'ambito di una struttura capitalistica di produzione è la norma, diciamo. La posizione del governatore Fontana invece deriva da una preoccupazione di sostenibilità degli ospedali lombardi, dato che la Lombardia è la regione che è maggiormente più sotto pressione dal punto di vista della tenuta del sistema sanitario regionale, anche perché sono state fatte una serie di tagli, una serie di effetti di sostituzione tra la sanità privata con la sanità pubblica, ma in questa situazione la sanità privata non dispone delle risorse, delle tecnologie, posti letto in terapia intensiva per intenderci, a sufficiente perché è un intervento questo che la sanità privata non ha interesse a fare perché è molto costoso, ha dei costi fissi elevati e dei margini di profittabilità irrisori, se non addirittura nulli. Quindi la sanità privata fa interventi sanitari che comporta la possibilità di ottenere più alti profitti che non sono quegli interventi che richiedono invece dei costi e degli oneri abbastanza elevati, che invece vengono scaricati solo e esclusivamente sulla sanità pubblica. La sanità pubblica lombarda è in una situazione di pressione per questo e quindi è chiaro che Fontana ha il primo interesse di impedire che ci sia un'implosione del sistema sanitario regionale, che è uno che è sempre stato da parte prima di Formigoni e adesso di Fontana, considerato uno dei fiori all'occhiello della gestione del centrodestra in Lombardia e quindi sarebbe un vulnus anche politico che avrebbe degli effetti di feedback molto, molto pesanti. Però qui siamo di fronte a un paradosso perché da una parte abbiamo Fontana che chiede l'intervento dell'esercito perché dice faccio l'esempio di Milano perché i dati che sono stati riportati riguardo a Milano, che a Milano c'è un 40% della popolazione che comunque si muove, non sta a casa. L'accusa è che questi si muovono per andare a fare jogging o per fare passeggiate, cose del genere, cosa che è assolutamente falso, perché se abbiamo che un 50% delle attività produttive degli uffici pubblici, dalle poste in poi, dalle banche, eccetera, eccetera, sono aperti, è chiaro che queste attività produttive aperte richiedono che ci sia manodopera che lavori e non tutti possono lavorare da casa, ovviamente. Soprattutto per quanto riguarda le produzioni manifatturiere, le produzioni diciamo più di tipo industriale. E quindi noi abbiamo che si condanna e si denuncia che ci sia un 40% dei cittadini milanesi o dell'area milanese che si muove e va a riempire i metro e i treni per pendolare, però abbiamo anche il 50% delle attività produttive aperte e questo è assolutamente paradossale. Non credo che la gente prenda il metro o vada sui treni pendolari per diletto, per piacere suo, lo fa perché deve andare a lavorare. E quindi da qui c'è lo scontro tra Fontana e l'Assolombarda e la Confindustria. Però ed è uno scontro ed è un paradosso che non è risolvibile da questo punto di vista. Fontana preferisce, dice, chiudiamo il più possibile le attività produttive per evitare magari fenomeni di ulteriore contagio e quindi limitare, diciamo, la crescita del virus che va a colpire poi la tenuta del sistema sanitario regionale. Credo Benissimo, che si possa leggere in leggo questo subito, modo, no? certo. Benissimo, Andrea, io ti saluto, ti ringrazio per essere stato con noi anche oggi e alla settimana prossima. Un saluto a voi tutte le ascoltatrici e ascoltatori e buona continuazione sulle frequenze della radio. Mi auguro che la radio non abbia partecipato alle 11 a quella roba. No, noi alle 11 avevamo radiogiornale. Per No, fortuna, tra l'altro, per guarda, mi fortuna. sono domandata una certa perché alle 11 ero vicino alla finestra, non ho sentito niente, quindi Bene, evidentemente Brescia, non lo sento neanche cantare alle 18 come fanno da altre parti, ovviamente Brescia non sta partecipando molto, la situazione ma sono tutti aspetti purtroppo. questi, da un punto di vista sociale, di prove di controllo sociale della popolazione e creazione di elementi di nazionalismo, insomma, che possono avere anche una piega abbastanza pericolosa. Vabbè, Vedremo comunque, vedremo. di commentarli più in là. Intanto ti ringrazio. Grazie a voi, un saluto a tutti e Ciao, ciao, ciao. Io ricordo che con noi c'era Andrea Fumagalli, docente di economia politica all'Università di Pavia, il consueto appuntamento di analisi critica dei fatti economici della settimana con il nostro collaboratore. Rimanete all'ascolto, lo spazio approfondimenti. Eccoci qua dopo questo lungo intervento di Andrea Fumagalli, che si è sentito quasi del tutto, un qualche piccolo problema tecnico, ma così sono queste giornate. E mi piace ora di leggere un articolo per far vedere come in realtà tutto il mondo è paese, penso che molte delle cose che sono state dette da Fumagalli appunto vengono in qualche modo anche fanno parte anche delle riflessioni di questa economista indiana, nello specifico, ora vi dico anche che da dove l'ho pescata questa, da un articolo di Internazionale, si chiama Jayati Ghosh ed è un'economista indiana, insegna all'università di un posto strano che non so nominare, ma sta a New Delhi e collabora con diversi giornali indiani, vabbè. E scrive in realtà un articolo abbastanza diciamo, ragionevole. Non penso che sia un esponente diciamo, dell'estremismo di sinistra indiano, però quello le riflessioni a cui arriva sono interessanti. Parla anche lei appunto di debito, di crisi post, cioè di quello che accadrà quando l'emergenza sanitaria sarà finita e qualcuno dovrà pagare questa crisi, e probabilmente quel qualcuno saremo noi tendenzialmente. Ebbene, lei ha una riflessione in merito che parla appunto di annullamento del debito. Ora vi leggo un po' del suo articolo, poi magari a un certo punto salto alle conclusioni. Cita l'articolo però un caso interessante, che è appunto come si sono comportate i paesi belligeranti nei confronti di Berlino nel seconda guerra mondiale. E, vabbè. E quindi niente, l'articolo in realtà inizia con delle riflessioni più generali e inizia con: le pandemie come quella del Covid-19, per quanto distruttive, possono essere utili se ricordano a tutti l'importanza della sanità pubblica. Quando arriva una malattia contagiosa, anche le elite più tutelate devono preoccuparsi della salute delle fasce più trascurate della società. Chi ha invocato privatizzazioni e tagli alla spesa pubblica che negano l'assistenza sanitaria ai più vulnerabili, ora sa che lo ha fatto a proprio rischio e pericolo. Nell'immediato, tuttavia, la crisi del Covid-19 potrebbe avere effetti gravi, spingendo l'economia globale verso la recessione. Le filiere di approvvigionamento saltano, le fabbriche chiudono, intere regioni sono messe in quarantena e un numero sempre maggiore di lavoratori fatica a guadagnarsi da vivere. Questi sviluppi provocheranno perdite economiche via via più alte. Un'economia mondiale che soffre già di una domanda insufficiente a causa delle disuguaglianze crescenti, ora si trova esposta a un enorme shock dal lato dell'offerta. Un'altra potenziale conseguenza della pandemia, meno riconosciuta ma forse più importante, è una maggiore fragilità finanziaria, che rischia di provocare una crisi del debito o addirittura un crollo finanziario generalizzato. Quando il Covid-19 sarà contenuto, le aziende ripartiranno e la gente tornerà a lavorare, sperando di recuperare parte dei redditi persi, ma la ripresa potrebbe essere messa a rischio da una serie di crisi finanziarie e del debito irrisolte. L'attuale fragilità finanziaria precede di parecchio il cigno nero del Covid-19. A causa degli enormi debiti accumulati sia nei paesi industrializzati sia in quelli di via di sviluppo dopo la crisi finanziaria del 2008, era chiaro da tempo che anche eventi minori, i cosiddetti no unknowns, cioè le cose che si sa che capiteranno ma non si sa ancora quali sono, potessero avere effetti destabilizzanti di vasta portata. Tuttavia, fino a poche settimane fa, l'aumento dei prezzi azionari, frutto di una lunga fase di politiche monetarie espansive delle economie avanzate, ha mascherato l'aumento dei livelli del debito. Come dimostra il recente panico nelle borse, le bolle non possono durare per sempre. Ma in assenza di una pressione attiva dell'opinione pubblica o di un intervento dello Stato per facilitare l'estinzione, i debiti non si sgonfiano da soli. Una recente analisi della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo mostra che un debito sostenuto può rappresentare un problema ancora più grande per il mondo. E poi qua segue una riflessione su questo. Su questo argomento, salto un pezzettino dell'articolo. I mercati finanziari asiatici, in particolare ora parla di quelli asiatici, ma è appunto una roba che è talmente un sintomo della globalizzazione che praticamente sembra di leggere di noi. per di più una quota significativa del debito in sofferenza della regione è in mano ad aziende energetiche, industriali e di servizi pubblici, colpite dalla recente flessione della produzione e del prezzo del petrolio. Con la caduta dei mercati azionari, le riserve di capitale si sono ridotte. E quindi cosa succede? Che è un gran casino, che sostanzialmente chi si è comprato il debito rischia di essere a sua volta in crisi. E quindi come si fa? È un gran paciocco. Lei cita sostanzialmente un caso che prende come esempio. Dice: possiamo prendere spunto dall'accordo di Londra del 1953, che cambiò le condizioni economiche per la Germania. Il patto tra Berlino e 20 creditori stranieri cancellò il 46% del debito prebellico e il 52% del debito postbellico della Germania, mentre quello residuo fu convertito in prestiti a tasso agevolato a lungo termine. Berlino doveva rimborsare il suo debito solo nel caso in cui registrava un avanzo commerciale. I creditori tedeschi furono incoraggiati a investire nella capacità di esportazione del paese e furono create le premesse per il boom economico. E tant'è, poi alla fine del boom economico chi se ne frega, però era interessante il fatto che lei citi un caso storico dove coscientemente si è rinunciato a riavere i soldi indietro e quindi nulla. Mi piaceva appunto di leggervi questo articolo perché appunto è scritto da un economista indiano e prima c'è stato invece un intervento di un economista italiano e potete vedere come i due interventi alla fine per alcune cose si assomiglino, quindi vuol dire che alla fine stiamo tutti nella stessa barca di merda e tant'è, e quindi vi faccio ascoltare un altro po' di musica per lenire la fatica dell'esistenza reclusa in quest'epoca di estrema fatica. Ecco, sì, via. Oh. you are.